Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti, benvenuti a Smart City. Che strumenti abbiamo per contrastare la siccità? Ne parliamo in questa puntata con la quale vi portiamo nei pressi di Roma per parlare di un progetto in particolare, un progetto europeo, Waterdrop, che nel caso specifico mira a recuperare le acque reflue, quindi quelle in uscita dai depuratori, per ripristinare l'equilibrio di una delle zone umide più importanti del Lazio, la palude di Torre Flavia, che è situata a nord di Roma tra i comuni di Ladispoli e Cerveteri, ed è un'area tanto suggestiva quanto importante dal punto di vista della biodiversità. Ma lo dico subito, il progetto, come vedremo, è interessante non solo per il suo risvolto ambientale, che pure è importantissimo, ma perché costituisce un esempio di come si possa tentare di affrontare il cambiamento climatico, a causa del quale, insomma, periodi come quello che abbiamo appena attraversato di grande siccità rischiano di diventare la regola. Ecco, dicevo, di come si possa tentare di affrontare questa questione, insomma, sfruttando anche una serie di strumenti che dopo tutto abbiamo a disposizione. Ne parliamo con Filippo Moretti, ricercatore del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali dell'Enea, che è anche il coordinatore del progetto Waterdrop. Benvenuto Moretti. Salve. Allora, senta, ci descriva un po' questa vostra idea. Io ho detto, solo accennato, no, questa possibilità di prendere delle acque reflue e di utilizzarle per ricaricarci una palude che si sta prosciugando fondamentalmente. Sì, l'idea nasce da due concomitanze. La prima è che da tempo l'Enea studia questo sistema naturale della palude, che sta soffrendo di una siccità, come diceva lei nell'introduzione, che riguarda moltissime aree umide italiane, ma è una siccità in generale causata dai cambiamenti climatici. Dall'altra parte avevamo nei pressi di questa palude un depuratore urbano che funziona molto bene, che è controllato e che produce un'acqua di qualità compatibile con quella della palude. L'idea è stata quella di sfruttare le capacità autodepurative della palude per migliorare ulteriormente la qualità dell'acqua che proviene dal depuratore e nello stesso tempo fornire alla palude quell'acqua di cui ha necessità a causa della siccità. Queste due cose insieme determinano l'utilizzo delle acque che provengono dal depuratore. Che altrimenti dove finirebbero? Finirebbero in mare, e sono quantità veramente importanti. Una città di 45.000 abitanti, okay, come Ladispoli, mette in mare al giorno una media di 17.000 metri cubi d'acqua. Ecco, insomma, quindi figuriamoci quando parlavamo, quando dicevo anche all'inizio che è un tema rilevante, perché di acqua, questa è una cittadina di 45.000 abitanti, ma in Italia siamo 60 milioni, quindi insomma c'è una bella base su cui lavorare da questo punto di vista, di acqua che noi depuriamo e poi buttiamo via, tra virgolette. Tra l'altro con costi notevolissimi, perché come può immaginare un depuratore che funziona bene è, certo, un depuratore che genera costi sociali abbastanza, certo, alti. Certo, ecco, e tra l'altro attualmente come viene regolato il livello della palude di Torre Flavia? La palude in questo momento utilizza, per ripristinare i livelli ai quali dovrebbe stare normalmente, utilizza dell'acqua che proviene dalle condotte di bonifica dell'Agro Romano, quindi una spesa consistente. Acqua che potrebbe essere utilizzata per l'agricoltura? Normalmente lo è, e in parte viene distratta appunto per ripristinare i livelli della palude, quindi potremmo risparmiarla in questo caso. Insomma, abbiamo sentito tutti dei problemi, no, di disponibilità di acqua quest'estate che hanno riguardato Roma e un po' tutto il Lazio. Ecco, che tipo di opere richiederebbe la realizzazione di questo progetto? In questo caso opere abbastanza facilmente realizzabili e poco costose, perché il depuratore urbano è a meno di un chilometro di distanza dalla palude, è in piano rispetto alla palude, quindi una condotta di circa 800-850 metri e delle pompe di spinta per l'acqua. In più, questa cosa più importante, dei sistemi di controllo per evitare che nel, certo, caso di un ipotetico malfunzionamento del depuratore le acque finissero in palude nel momento in cui non sono perfettamente depurate, ma questi sistemi di controllo lo stesso non sono costosissimi e possono essere applicati. Senta, oltre all'effetto di rinaturalizzazione della palude, insomma di ripristino di condizioni che peraltro esistevano fino a pochi anni fa, ci sono degli altri effetti positivi che voi state anche valutando? Noi pensiamo, per noi la rinaturalizzazione in questo caso significa rendere di nuovo umida una parte di palude che si è interrata, che, sì, corrisponde a circa due terzi dell'intera superficie, quindi una parte abbastanza grande. Tendenzialmente le paludi sono aree naturali che si interrerebbero col tempo. L'uomo ovviamente in questo caso, con una forte spinta antropica, le ha accelerato questo, certo, processo, e noi vorremmo riportarle un po' alla loro vocazione naturale. In grandi coprire la superficie allagata della palude significa avere una grande quantità d'acqua disponibile per usi secondari, l'agricoltura tra questi, ma anche a scopo antincendio, oppure per esempio le acque reflue che di nuovo vanno in mare in quantità così grande possono combattere l'erosione costiera. Quindi diciamo di applicazioni ce ne sono diverse. Senta, più in generale mi pare che qui ci sia un tema rilevante, cioè noi utilizziamo grandi quantitativi di acqua dolce, questa oggi fortunatamente viene poi raccolta, depurata, ma le acque una volta depurate vengono sprecate, diciamo così. C'è la possibilità di utilizzare meglio questi, più in generale queste acque reflue per fare scorta per i momenti di siccità? E come si può fare? Guardi, ritornando ai sistemi di depurazione, il mondo sta lavorando sul riutilizzo delle acque reflue. Tenga presente, prima le ho detto che una città di 45.000 abitanti mette in mare, nel caso nostro, circa 17.000 metri cubi d'acqua al giorno e altrettanti ne capta dalle sorgenti, perché per esempio la Dispoli, la città di cui parliamo, non ha industria e quindi tutta l'acqua che viene prelevata dalle sorgenti è per uso umano e noi abbiamo un bilancio di circa le stesse quantità prelevate alle sorgenti e altrettanta acqua immessa in mare. Le sorgenti andrebbero in qualche quindi modo... Quindi saltiamo la terraferma praticamente ormai, mi sta dicendo, no? E poi non c'è da sorprendersi che i laghi si svuotino. Esattamente, esattamente. Quindi il riutilizzo delle acque diventa un tema importantissimo perché ne riduce il consumo all'origine. Credo che quello dei depuratori sia un tema molto sensibile perché ogni città ne possiede uno e almeno gli usi agricoli dovrebbero essere garantiti. Per arrivare a riutilizzarla a scopo umano credo che il percorso sia ancora molto lungo e costoso perché la depurazione dovrebbe essere di qualità altissima, ma insomma questo è un altro tema. Le cronache si sono molto occupate del caso di Roma durante l'estate. L'acqua utilizzata dai romani finirà anche lei in un depuratore e poi finirà o nel Tevere o direttamente nel mare. Cioè un pezzo della soluzione del problema dell'acqua di Roma può venire da lì secondo lei, da quello che resta dopo la depurazione? Io non so dove siano collocati tanti depuratori che ha Roma città, però quelli in prossimità delle campagne sicuramente possono essere utilizzati perché dotati di una vasca di fitodepurazione che viene costruita appositamente a valle del depuratore, quell'acqua una volta depurata può fluire tranquillamente nell'uso agricolo. Questo è un modo per recuperare una quantità d'acqua importante sicuramente per l'agricoltura. Ovviamente è sempre una questione di costi-benefici, e cioè se il depuratore è in prossimità di dove si deve utilizzare l'acqua, è chiaro che è molto conveniente. Se l'acqua deve essere portata lì, poi depurata successivamente, certo, diventa certo più costoso. Alla fine l'acqua quella è, voglio dire, quando non la si utilizza in un modo la si utilizza in un altro. Io immagino che la scarsità di acqua, magari anche potabile, che ha sofferto la città, sia legata anche magari a un utilizzo agricolo di acqua potabile, che potrebbe essere sostituita da acqua non potabile ma adatta all'agricoltura. Cioè queste dinamiche ci sono, cioè, no? Sicuramente c'è un uso sbagliato, contro legge, dell'acqua potabile che viene fatto in maniera indiscriminata, ma addirittura ci si innaffiano i prati delle abitazioni, insomma, in alcune circostanze quando c'è disponibilità d'acqua e non c'è consapevolezza, perché fino ad oggi l'acqua c'è stata in Italia, sì, paradossalmente, e ce n'è stata in quantità. Tanto è vero che ci possiamo permettere di sprecarne il 30, 40, 50%. Non abbiamo ancora la percezione di quale gravi crisi idrica stiamo affrontando e di quali siano effettivamente i cambiamenti climatici che la determinano. Non c'è ancora questa consapevolezza nelle persone. Va bene, grazie per intanto Filippo Moretti. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.